arcobaleno negli occhi del mio amor. Il profumo che il cielo manda giù è il profumo dei baci che io non sento più. Ma un giorno, cara stella, col tuo raggio tu mi insegnerai la via. Andrò a rubare tutti quei colori per la bella innamorata.